Nella storia ci sono alcune scene che sono diverse. During the story, there are a number of different scenes. In posti diversi. In different locations. E in diversi momenti della giornata. And at different times of the day. Quindi, per aiutarla, so to help you, prima di ogni nuova scena, before each new scene, c'è un titolo. There's a heading. Per esempio, venerdì pomeriggio, 17:30, 4 settembre. Sara arriva all'aeroporto di Firenze. Friday afternoon, 17:30, 4th September. Sarah arrives at Florence Airport.